Si è rotta. Cosa si è rotta? La pedivella. Ah, cazzo. E tu si è fatto attendere. E mi sono seduto adesso al computer qua. Sì, sto guardando un po' di sport. Adesso lascia vedere se c'è qualcuno in radio. Anche quella piccolina funziona, tutti fondo scala. Ah no, hai tutta la maniera di transiglia 525. Ehi, fondo scala. È un blaggio, ma quella ti darà ottime soddisfazioni. Speriamo di sì. Ecco, gatto, hai fatto bello il cavetto che ha fatto Franco, no? Si sa fare i cose fatti bene. Ma quello mio, gliel'ho dato io quel capo. Bello, morbido, morbido. Bello, bel cavetto mi ha fatto. Non sto provando, ce l'ho attaccato al 430. Cazzo, come quello che ho fatto io, solo che il mio è un metro. Io gliel'ho detto che vuole un metro il capo. Se no se devi spostare il microfono, non puoi. Siccome a me mezzo metro non arriva da dove il microfono, da dove l'apparato, quindi me l'ho fatto un metro. Hai fatto bene, vabbè, a me già va bene anche così, tanto ce l'ho nella base, già va bene. E infatti. Poi adesso ne compro un altro, ne facciamo un altro. A Fusaro l'avevo comprato. E ha sbagliato Antonello, invece di darmi quello fino mi ha dato questo qui, e quindi sull'altro microfono non l'ho potuto piazzare perché non si può intestare l'RG45, capito? E allora l'ho fatto per qua. No, no, va bene, va bene. Questo è bello schermato e va benissimo anche lì. Hai quanto è grosso? Sì, sì, grosso, bello, è fatto bene, veramente fatto bene. Il termo restringente. Un bel cavettino, ma me li faccio fare tutti, adesso compro i connettori, me li faccio fare tutti con gli spiralati del lì, non servono a niente. Ehi, cappa, infatti, diciamo che i connettori non ha più Fusaro, a beso mio. Li ha ordinati e dovrebbe arrivare la prossima settimana, infatti la prossima settimana li prendo 4 connettori. Capito, così se lo fa anche lui, uno in più, ne faccio fare un altro, e così li elimino tutti. Tanto li fai pin to pin, quindi non c'è neanche bisogno di aprire l'altro cavo, capito? Sì, infatti, pin to pin, funziona bene. Aspetta che è arrivata mia figlia, va a scaricare la spesa. Riusciamo a vedere se c'è qualcuno qua. Prova. Ecoute le stazioni. Qualcuno l'ascolta su questa frequenza? Sì, cosa vuoi tu? Ciao Natalino, buonasera. Ciao Gianni, buonasera. Tutto bene? Tutto bene. Major Guy. Oi. Allora, a voce ferma, questa cosa, sistemazione dell'antenna, com'è? Tutto a posto? Sì, tutto a posto. Meglio così, dai. Sei soddisfatto, sì. Te credo. Meglio così, dai. Quello grande stai utilizzando? Cos'è Gianni? Ho detto, se stai utilizzando quello grande, mi sembra di sì. Sì, perché non si vede? Più che altro si sente, dai. E allora, capiti bene? Si sente la clac, tipica. Il clac? No, la clac, proprio il tapac. Perché c'ha il lock, capito? Invece di schiacciare il PTT schiaccio il lock. Cuocuomani. Chi è questo Cuocuomani? Avanti. Buonasera signori, ero su canali alti. Ma la sentite anche voi questa calma piazza? O me ne c'è già l'antenna? No, la sento anch'io la calma piazza. Ah ok, è no, una cosa surreale ai Natalì, surreale perché i baracchini sono abbastanza rumorosi, oggi un silenzio, ho detto bah, eppure stazionari erano buone, ho caduto l'antenna oppure mi hanno messo un carico fittizio al fine del cavo in cima. Cosa ti volevo dire? Stamattina arrivavano a 5.25 i francesi a manetta. Vuol dire che funziona anche con l'antenna piccola? Sì, se ha scavalcato il palazzo, sì. Cavolo, se funziona. I francesi sentivo lì, boh. Ciao Gianni, ma forse erano francesi di Corsica, corsicani saranno stati, se no lo skip è troppo lungo in VHF. Oh no, Cannes, dove fanno il festival. Oh, forse erano in direttiva allora, se erano in diretta erano veramente in direttiva. Va bene, un saluto a tutti, dai, sto facendo prove su altre bande, ciao. Ma che prove stai facendo? Dillo a me le prove, che le facciamo assieme. Ciao Marco. Dimmi già. No, per salutarti, ciao Marco. Ciao Gianni. No, Natali, stavo provando a sintonizzare le stazioni, ma sentivo questo silenzio. Qui c'è qualcuno che faceva prove a 27519. Ho provato a fischiare ma non ha risposto, forse c'è il volume aggirato. Non ho capito manco chi è, 27519, o sta centrando qualche apparato. Bene, proseguite, ciao. Ciao, ciao. C'era anche Claudio, solo che sta scaricando la spesa. Quindi Marco si è spostato, dai. Andando ad ascoltare altro. Troia. Cosa ti fa male Gianni? Dillo a me, dillo a Mega. No, no, niente in particolare. Troia. Venesse in ambulanza, ne passa una ogni 10 minuti. E i lunghi è la strada delle ambulanze, hanno il passaggio qui, per forza. Di tutto passa qui. Ehi, mamma mia, anzi oggi tranquillo, ieri avanti ieri proprio era allucinante, una braccia all'altra proprio. Ma che vuoi che ti dica? Io poco affollamento oggi, anzi addirittura zero. Ma evidentemente è troppo presto, sono le 5:05. Poi anche la bella giornata, sicuramente da farti a fare altro, dai. E io magari sono ancora con i capi facendo il pisolino. Possibile anche quello, eh. Oh, yeah. Anche io ero spaparanzato nel letto. Mi sono svegliato mezz'oretta fa, dai. Oh, yeah. Ma allora se viene prendi vieni illuso a me. Non ho mica sbadigliato, no? No, ho sbadigliato io. Ah, ecco. Bene, Meda. Quindi, Natalia, le piazzate tutte le antenne? Eia. Per il totale di, se non sono indiscreto? Ehi, tre. Ah, ok. Sempre sullo stesso tubo, sul tubo principale, giusto? Ehi, non l'hai vista la fotografia? No, non so se mi hai mandato niente, non penso di aver ricevuto un messaggio da parte tua. Su Telegram poi, perché WhatsApp non ce l'ho. Okay. La più alta è la Game Master, giusto? O sono più o meno alla stessa altezza? No, la più alta è quella lì. Troia, bene mera. Quindi hai messo l'antenna della 27 e poi anche per frequenza più in alto, giusto? Sì, per ascoltare. E com'è il movimento da quelle parti? C'è qualcuno? Adesso tutto taccio. Ho capito. Troia. Oggi, come sta dicendo Marco, anche a livello di propagazione, di suono, di disturbi è proprio veramente basso. E c'era la 5. Ah, io lo spegnete i baracchini che devo entrare io. Vai, se no ti metto la portante tu, già nel caldo. Oh, stavo diventando scemo, guarda. Ah, sentivo tutti quanti come se fossi in FM. E cos'era il cursore che avevo toccato ieri per la banda laterale, che se avevo spostato il clarifer. Mi sentivo tutti quanti tipo splatter, da. Tutto che è strano, guarda, ho toccato, guardato, ho fatto, niente, invece era il clarifer, perché anche la M deve essere esposta da lì. Certo che esposta, è tutti fuori frequenza l'abbiamo. Eia, non mi sentivo, Adesso va bene, da. Adesso vi sento tutto ok, tutto al 100%. Assicurati sempre che sia al centro, tu e vorrai, problemi non ne hai. Ehi, ma me ne sono dimenticato, ieri le banda laterale, l'ho spostato, l'ho fatto, eccetera, per chiarificare uno, perché gli altri mi arrivavano tutti al centro, uno invece dovevo spostarmi per ascoltarlo. C'era la Francia ieri, in banda laterale. Questi francesi sono forti, oggi arrivavano anche nelle bande di su, li sentivo, dimmi tu. Hanno potenza, sì, arrivavano fortissimi qua, andavano molto bene. Ciao Gianni, buonasera. Ah, ciao Gia, hai sentito anche a te, dai, non so se ci sia altra gente, io non ho fatto ascolto, perché stavo impazzendo, avevo sudato, avevo fatto la doccia, adesso stavo sudando, cazzo, cercando di capire che cosa poteva essere, perché l'apparato è quello nuovo, mi sono cagato sotto. Succede anche a me ogni tanto di spostare qualche manopolina, poi mi dimenticheggio. Niente, l'altro giorno c'avevo i mic gain della radio a metà, perché la stavo provando in FM. Vabbè, succede, dai. Anche a te succede, ti caghi sotto. Casi eccezionali, però già è successo, dai. Ciao Claudio. Anche a me succede a volte, mi caghi sotto. Buonasera a tutti, buonasera. Ciao Bittoni. Ma come peccato? Ci peccato un freddo guai. Cazzo, mi sono fatto la doccia, sto uscendo dalla doccia, adesso sto già sudando, No, qua in montagna sta bene, c'è un bel freschetto. Anche fuori c'è un venticello bello fresco. Lo sto aspettando mio genero. Siamo andati al pastore a prendere un po' di carne e poi ci sediamo fuori e facciamo 5-6 birrette. Alcolizzato! E siamo alcolica. No, a me non piace, io le bevo una, ma la bevo naturale, proprio a me mi piace reclusa, senza essere non filtrata, eccetera, eccetera. Mi piace la normale, insomma. Ho preso la Conad. La Conad c'era, in offerta, ho fatto un bel carico e c'è quella. Praticamente l'alcolica e poi ho preso quella al limone, molto molto buona. A te piace il caffè? Io vado sul classico qua. Ma anche io. Classico, quella diciamo tante. Pronto? Stavo parlando con mia madre, dimmi. Ho letto quella che fa fare plin plin. Quella con la schiuma, amico, quella buona. Sì, è magica quella con la schiuma, quella buona. Io quella la prendo per ingannare mia moglie, capito? Perché mi scelgo fuori, mi prendo una di quelle e l'altra la nascondo. Quando esce lì c'è sempre diretta per me, no? Analcolica. Non è segnato l'aria, ma tu papà, tu la devi fregare, ti prendo quella analcolica e tu te la nascondi una di quella buona e ti giù di quella, dai un sorsetto a quella lì e la metti sopra il tavolino, capito? Quando lì esce, no? Analcolica, fregata. Già ne sai due strisce. Ma che tutti la mamma uscì, che a Roma c'aveva un armadio pieno di quei minion già, anche tua madre sicuramente lo la faceva con la collezione di quei minion di tutto, vedi? Mamma faceva il liquore in casa, la sambuca, faceva la strega, solo che poi non ne ha più fatto perché si è accorta che quando mia sorella portava gli amici e le amiche a giocare a poker se lo facevano tutto fuori e allora non ha più fatto. No, mamma no, mamma prende la collezione di Migno. Allora c'erano quei negozi che vendevano i Migno, io me li bevevo tutti e poi li riempivo l'acqua. Lo so, c'era uno che conoscevo io che ne beveva gogo di quei mignoli. Sì, ne avevo quelli, ci portavano la borsa, anche volte mi cazzavo io. ho visto stasera non tutte le cose che ma poi finire c'è no, una di noi abito 4, stessa cosa è un boccettino, un boccettino. E abito 4 che non ci ha fatto due dazi. C'è qualcuno sotto il fondo, lo sì? No già, io ho 0 VQRM, sai che vuol dire 0, mi sono rotto le palle, ho rimesso l'altra antenna, perché con la mantola, guarda, in questi giorni è un casino, QRM 7, 8, 9, con la J-Pol 0, dico 0, manco ci muove l'ago. L'ha rimpiazzato? Sì, l'ho rimessa bassa bassa un angolo, perché non mi senti. Sì che ti sento, certo che ti sento, ma tu arrivi sempre a forza, quindi non è che ci faccia molto caso. Mettiamo giù, domani metto col drone, perché sto sistemando l'armadio. E facciamo andare un po' il drone a farlo funzionare un po' l'attacco 920, la modulazione non sarà più tempo, comunque già è abbastanza affidabile anche quella perché c'è un buon microfono. Lo facciamo andare un po' prima di si faccia il cattivano spento con l'amplificatore. Cos'è questo drone? L'amplificatore? Allora, quello che è FL 2100, 2100, non so se lo dire. Ehi. Si ha avuto il più grosso che ha avuto è il Jumbo Aristocrat, ma ti parlo di 30 anni fa. No, ma questo non è per la 27 già, questo è 0,30, fa 10, 15, 20, 40, 80 metri, non ce li ha gli 11, capito? Lo metto in 10 metri e con la contattore funziona anche in 11 metri, però ci vuole il cavo per attaccare alla radio, non si può attaccare al barattino quello, c'è un cavetto con due jack che se non entri quello non viene alimentato, c'è il VTT elettronico, capito? Non va importante col baracchino. Insomma, bisogna stare attenti. Molto attenti, perché c'è un bel tensione lì, c'è due tubi, due bicchieri quella della cucina, c'è, per non dire il fondo della bottiglia di birra, ne ha due. Però non ho un sacco di tensione, quindi bisogna stare attenti, infatti lo accendo un po' prima domani, faccio stare acceso e poi dopo domani lo metto in funzione. Mi Natali lo lascia qualcosa della schicchiata delle valvole. Natali. Non me ne voglio mai ammentare. Ma lineare a KF? No, lineare della 27 a valvole. Volevo togliere le valvole io, era spento da un sacco di tempo. Mi volevo cavare i valvoli, quando ti dava giù ducato la valvola, ma con tutta la chicchiata, ma defibrillato. Fatemi un po' staccato un bel po' di tempo. Ma il mio le valvole non ci sono, le valvole le ho tolte. Le valvole dentro lascio. No, le valvole sono a volte al 1000 bolle, sono conservate. Infatti prima aperto le valvole, volevo lasciare acceso almeno 24 ore. Poi lo posso usare, capito? Le valvole si tolgono sempre l'amplificatore. Fui a prima della 27, se ti dici chi ha delle aiuti in valvole, ti va negato, sono da 500 watt l'una. Lo cos'è una giubilea di c'è schiata, finita lo fuoco sì. Perché le vescere che fanno da accumulatori, no, di corrente, quindi se la conservano dentro, come poi c'è la batteria della macchina, tu una volta vai a toccarle, se c'è corrente all'interno ti dà di cosa lo mantesci. Sì, ma infatti si lascia attaccato senza tensione, scarica tutta la tensione dei condensatori, del trasformatore, piano piano la tensione della modica della valvola, è il pilino che carica, non è mica la valvola, è il pilino che tira la tensione, piano piano scarica anche il pirino della nodica, capito? E dopo con un guanto di quelli da elettricista, un guanto di quelli le togli, le stacchi, ho fatto così, le ho conservate. Dove sei? Eia. Oh, io, mamma mia come sto. Ho portato due scovelle di cose, di come si dice, con parmigiana, grazie, basta, minchia, notte in bocca al fuoco, se rimane nel genere, c'è un romano pieno di, come si chiama? E grazie. Semenze, cosa, non so cosa vuoi dire. La pasta con la pancetta, come si chiama la quella pasta? Mira, come si chiama la pasta? Che hai portato, come si chiama? Matriciamo. Lattale riprende. E cappa, cosa riprendo? Cosa riprendo? Non vai a andare a farmi un caffè, sopra ancora dormito, vado il cuscino attaccato a capo. Mi sono coricato, ho sdraiato. Buona idea. Lo scendo tutto lo sciato. Lasci di qua. Arrivare partito al cancello, grazie. Ma ci fu al cancello, ancora dormito. Via Marco di nuovo, come? Scusa? Ho detto che è rientrato Marco. Si è fatto un giro nei canali più in alto. Ma come ce l'ha fatto in bicicletta? Ehi, no, con il monopattino. No, mi stavo ascoltando, colgo l'occasione, i suggerimenti di Natalino, ci vuole un bel caffè in vena qua, e vado a farmelo subito. Ti seguo a ruota. Sì, andiamo a fermare in retta, ciao a tutti, a dopo. Alla salute, alla salute. Ciao, ciao, qua. Bevi piano e ghiacciato. Sì, ti va. Marco! È andato a farsi un dovrai caffè. Questo caffè proprio non ci sta, per me non ci sta. Perché c'è caldo, proprio. Io preferisco una menta adesso, una menta fredda, una birra, buh. Però caffè proprio con questo caldo. Ma io una birra me la so comprendi. Mia Franco, insomma dai, tutti sbirrettando, dai. Se no non è fresca. Io sono a Stemio. E già te la bevi anche tu. No, c'è il frigorifero, ho preso quelle lattine da 50 cc e ho pagato un euro e qualcosa. Perché quando vado in e compro la pizza, ogni volta devo pagare 2,50 euro la birra. A chi me lo fate fare? 3 euro, 2,50 euro. Ce l'ho in frigo, me la prendo e via. Ehi, capo. No, a me non mi manca mai. Io la compro da Eurospin, la prendo, è buono. Non mi manca mai. Ce l'ho sia la lattina grande e la lattina piccola. Quando mi mangio la pizza, mi prendo la lattina grande. Se no, mi prendo la piccola. Qual è quella verde? Eia. No, io prendo sempre Knusa, a me mi piace chissà. Cioè, ce ne sono tante di birre buone, ma di Knusa a me io la preferisco, forse perché sono abituato a bere quella. Questione di gusti. Poi, io, per dire, sì, perché a me piace più l'Knusa di tutto, ma l'Knusa c'ha un prezzo, poi è uno spino la trovi. È diverso dell'altra. Da pagare una birra da 35 centesimi, a pagarla 1,30 euro, 1,20 euro è un bel. Quanto la paghi 35, quella da 50? Quella no, allora, deixa vedere, da Gantegna. No, quella da 33. Ah, la 33, ho capito. Ma io la prendo da 50 e la pago un euro. Dei Knusa, capito? La pago un euro e qualcosa, un euro e 20, una cosa del genere. Da 50 ci siamo già, ci siamo. Comunque buonasera a tutti. Ciao profeta. Ciao Franco, già ti ho sentito come sei entrato, ti ho riconosciuto al volo. No, io la birretta me la bevo più tardi. Vado magari a trovare qualche amico, la classica ora d'aria, come ti si dice. E poi ce ne teniamo la base. Caffè va bene così, va bene. Tanto per uscire per una birretta insieme agli amici. Ok, io pensavo non mi avevi sentito, anche a Sassari arrivo. Non ho capito, Fra, cosa hai detto? Ho detto, io pensavo che non mi sentivi. Caspita, anche a Sassari arrivo. Già che ti sei buscato sul tazzetto. Arrivi alla grande. Cava, vabbè, Fra, mi arrivi sempre a Sassari. Anche basso già ti arrivo. Forse quello tutta la storia. Beh, sto provando già un bevucetto 31, sto provando e sembra che stia pompando. Coltivate da quello, c'è tova. Mi dà 90 modulati. Vabbè. Però le valvole poi a trovare un casino di quei lineari lì. Io già li preferisco più a valvole. Gaffa, ieri ci avevo volato 747, ma sono andato a pigliare il pulsante, gatto, è ma secco di dita, ma secco. Non riuscivo anche a tenere in mano, il gatto bruciava. Ah, vero. Mettili una ventolina sopra. Ho fatto prima a toglierlo e a mettere il valvolare. Ma se ci mette la valvolina, ma una ventolina e la fredda, come ho fatto io. Ora, con un interruttore sopra l'avvento, e la tacca. Cappa, no, gliel'ho già fatta, gliel'ho appoggiata, ma questo rumore dell'avvento a me non mi piace molto, non mi piace. E allora l'ho staccato e l'ho messo da parte. Quelle sono lineareti da usare poco e veloci. Vabbè, no, ma se no quelli vanno bene, l'ho portato io il primo a Sassari, da me l'ho comprato tutti, l'ho portato io il primo, l'avevo comprato da cosa, da Tecnocomunicazioni, ma un bel po' di anni fa, e poi si era rimbirato tutti anche il nemico che andava bene. Ma guarda già, io non ne ho comprato, era di un cugino di mia moglie, prima di morire, perché è morto adesso, prima di morire me l'aveva regalato, me l'aveva, dice tanto io non ne uso, tieni, dopo la scatola, nuovo, l'aveva comprato, non l'ha mai usato. Vabbè, ma non c'è bisogno adesso di lineari, si parla tranquillamente, io sto scendo con il fatto dell'apparecchio omologato, tranquillamente, come ti arrivo lì, sto scendo col 3009 adesso, col microfono amplificato, però col 3009. Ma qua sei 7 a questa radio, però dovresti essere intorno ai 9, dovresti essere, 9 qualcosa, perché lo switch lo sai, lo switch del Galaxy è un po' amaro. No, di quel Galaxy, il mio era giusto, perché c'è una resistenza a cambiare che si fulmina e bisogna di parte, capito, dopo un po' di tempo, vuole cambiare. La resistenza è tutti da vuole rimesso in linea il coso, bisogna tararlo, dai, e poi ti dai i fatti giusti, capito? Una volta che li metti la resistenza lo tari, però se era già tarato se ne arriva com'era, dai. Capo, non lo so, io bisogna portarlo da qualcuno che lo sa fare, perché io non ne ho, non è facile di quei lavori. Non è toccare, dai, al limite portalo qua, se proprio non sa cosa fare, se mi arrangio io. Capo, quando me ne stacco, Gianni, capita, me da lì due, è bello veramente, anche se ero lottato che lo cercavo. Io sto scherzando, a me mi manca, perché io non ce l'ho più, a me mi manca adesso, però già c'ho delle belle stazioni lo stesso, c'ho il Ruiz che è molto bello, c'ho il Cobra, c'ho l'Inter che sta sulle basi, e ne ho diverse, c'ho il 3009 che sto parlando adesso, c'ho il Magnum 980. Capo, ma tu quello lì lo dovevi aggiustare, portarlo fuori, mandarlo da qualcuno e farlo aggiustare, perché era bello, è bellissimo il gatto, esce bene, il mio io non li trovo nessun difetto, a parte lo Smith non li trovo nessun difetto. Ma anche il mio era così, poi piano piano ha cominciato a gracchiare la radio, non era più la stessa, poi piano piano è mancata anche il QRM, non si sentiva più nessuno di colpo, e non è a dire che c'era lineare attaccato, che cosa, no, era normale, stavo scendendo normale così, eppure vabbè, ma è morto, cazzo, dopo tanti anni può morire un apparecchio, avanti già. C'era anche Marco e Natalino, e sono andati a farsi in vena il caffè, non so se sono ritornati, Io mi sono stufato, perché l'avevo già aggiustato due volte, quindi ho detto basta adesso, tanto così la cosa si fa scialata e non andava più da, era nuovissimo, è tenuto bene, dentro non era toccato, eccetera, eccetera. E purtroppo è andata così, da. cosa ci devo fare. Mi dispiace perché era un bel apparecchio, è la mia chicca. E sai, c'è sempre l'apparecchio che tu usi di più e quello che ti piace di più, quello lì era quello che a me piaceva di più di tutti. Capo, sì, perché lo trovi, a parte la cosa che c'ha, che è un barrasone, che è molto grande, a parte quello, però è comodo perché vai sul 45 ci vai veloce, ci vai, vai su un altro ci vai veloce, ed è, mi piace più di tutto perché c'ha il frequenzimetro e più i canali. Invece il Petrus che stavano vedendo, c'è un ventiero, stavo per prendere, me l'è cromato e non c'è il frequenzimetro, non l'ho preso per quello. No, il Petrus, quello della Fayette, quello lì non ce l'ha il frequenzimetro. Gianni? Avanti Marco. Ci volevo dire, che a parte la buccia, quello da aggiustare doveva essere un apparecchio, tuttavia, cioè, abbastanza semplice, tanto lo sai cosa c'è dentro. Dentro c'è un Pluto, praticamente. C'è il frequenzimetro, c'è la regolazione di watt, quindi dentro non c'è altro che un Pluto. È come un 3009, dovrebbe essere di una semplicità da far riparare quella, boh. Cioè, non è di quei baracchini, apparecchi strani, magari d'epoca, è una cosa, boh. Vabbè, peccato. Marco, tu a me non mi conosci bene, io l'avevo aggiustato già altre due volte quell'apparecchio, mi sono rotto le scatole, punto, basta. L'ho voluto dare a coso, ha detto che se l'aggiusta lui, basta, punto, se l'aggiusti, io rimango senza, tanto ne ho altri apparecchi, non rimango senza del tutto, ne ho qualcun altro. Non sapevo che l'avevo riparato più di una volta, e vabbè, se ti sei stufato di riparare, allora vabbè, quello è un altro conto. Vai Franco. Ehi capo, aspetta che stavo parlando Natalino, ciao Natalino, e ciao anche a te Marco, avanti Natalino. Ehi ciao Fra, sto vincendo a Gianni a regalarmi quello che c'aveva in macchina l'altro giorno, quello già mi piace. Folla di mare busciacca, la 500 euro costa. Peggio per te, io ti volevo fare un altro regalo, peggio per te, hai perso l'occasione. Vabbè, quello lì era mai fisso, lo uso solo in macchina e basta, dai. Qui c'ho anche il Cobra, quindi non c'è problema. Vediamo un po' se Claudio se l'ha bevuta questa birra, se si è cotto, dai, Claudio. No, dal sole sono cotto, ma la birra no. Cosa? Dal sole sono cotto, ma la birra no. Ah, vabbè, dai, allora. E adesso sta fermentando ancora. No, no, che mi devo lavare la macchina dopo, quando c'è un po' più di fresco. Al caldo fermenta di più, No, ma più gatti, già c'è qui sotto la veranda, c'è abbastanza fresco. Vabbè, ma il sole già c'è. Andave. Marco Condor, questo è il microfono che c'hai tu. Ah, già arrivato, non ne avevo idea, fai un passaggio. Sì, guarda, adesso, questo qui è col 3009, lo sto usando. Naturalmente io il 3009 non gli ho aperto nulla, l'ho lasciato come da fabbrica, l'ho mai toccato. Beh, la voce sembra fedele. A quanto l'hai messa? A metà? No, ce l'ho al massimo Marco, al massimo. Io l'ho tolto, Io qua sto usando adesso il President col mic di serie. Perché l'hai tolto? Perché c'ho i tasti up down per fare zapping sui canali, soprattutto canali alti, mi fa una comodità estrema per la banda laterale. Poi ho scoperto che si può mettere la modalità span, che qui posso andare a passi di 100 Hz, quasi come fosse un HF, di una comodità, non l'avevo mai usata, l'ho scoperta oggi, figurati. Quindi se l'avessi saputo te l'avrei comprata a te e non l'avrei ordinato. No, ma lo userò, ogni tanto lo userò in banda laterale, magari per parlare fuori si può usare. Ma non voglio far sordo nessuno, e poi la comodità di questi tastini è per me innegabile, c'è poco da fare. Io guardo più il lato pratico, mica non una modulazione più aumentata. Scappa, riprendete che non ho giugana. Oggi sono con il cazzo qui sul divano, c'è il gatto in grembo, sta russando, sembra un cristiano, sembra. E anche Lugano non russa, lui. Aspetta, sto guardando il Michigan a vedere se è al massimo. Nazzarino. Marco, ma 555 non c'è nessuno. No, Natali, sento una calma piatta in quasi tutti i canali, ci sono sporadiche stazioni in banda laterale, canali alti, ma sporadiche anche bassissime. Ho detto, sento un silenzio mai sentito oggi, non so perché. Vuol dire che ne c'è già la propagazione. Però che pulizia, eh? Adesso se entra uno basso basso lo senti bene. Pensa che se entrasse quello con cui parla Carlo, quello da Ozieri, quello a Bonnanaro, proprio oggi li sentirebbe, lui che è in alto. Credo, credo. Io ogni tanto sentito i francesi, nelle bande alte, in diretta, cazzo. Lì c'è anche Claudio. Claudio per esempio non arrivava mai con quel segnale che mi è arrivato. Aspetta, sentite che ho registrato il gatto che russa, Ecco. Questa casa sai questi giorni, il sabato, un dormitorio sempre, i gatti drumenti, io mezzo drumido, mamma drumida, un dormitorio. Ciao ragazza. Tutti i fondoscala mi arrivavano oggi, nelle bande di su, questa antenna funziona bene, quella piccolina. E via, dai, io rimango un po' in ascolto, se oggi ho più voglia di ascoltare, non me la sento raga, proprio non me la sento, non mi sento neanche bene, non, ieri notte non benedico, sono uscito, ma sono tornato stanco, proprio stanco il cuore, mi come se non ce la facesse, chissà che sia la volta buona, riprendi il profeta. Ehi, vabbè dai, intanto ce l'hai sempre accesa la radio, quindi noi siamo qua. No, sto controllando la radiolina, se sta andando bene, sì dai, tutto procede per il meglio. Oppure si può dire anche in un altro modo, se tutto va bene siamo rovinati. Quello lo so dire solo io però. Ma tu dici arrovinati. Perché si dice così, se tutto va bene siamo arrovinati. No, se tutto va bene siamo già arrovinati. Gesù è il vero, bra. Bello. Più la vera dove ti siamo, non puoi mandare di più. Forse se si mettono un po' di impegno, quei passati del governo ci continuano a rovinarci ancora molto poco. Sì, più di chi su chi siamo arruinati qua. Infatti, Oh, ma la radio amplificata ti arriva oppure normale di lontananza? Ma chi? La tua? È la mia, sì. Sì, amplificata. K, va bene, va. Il segnale tutto bene. Caspita, è aumentato adesso, ma si può prendersi. Sei 9 al mio Galaxy. No, non sto buffando, c'è un tastino qua dell'apparecchio. E io me ne sono accorto. Adesso sei ritornato normale. KK. E io adesso poco fa avevo il BV 131 attaccato. Adesso sto modulando con 15 modulati, solo la radio. Io sono 5 watt, aspetta un secondo. Franco, U59. Cos'è questo U59? Santiago 9, Radio 5. Allora questo usciva con 7 watt, usciva questa radio. Gli ho aumentato un attimino, al massimo glielo ho portato, il VR13. E adesso mi dà 15 watt modulati. Adesso va meglio di prima. Almeno posso modulare solo con la radio. Sì, Franco, prima 9, adesso 7 di segnale. Però vedi, anche liscio, in assenza di QRM, di Bailame, il segnale tuo è chiarissimo, bello, limpido, recoaro. Ehi, capo, magari la zona tua è negativa da me, capito? È negativo. Infatti, adesso, guarda... Aspetta... Natali, guarda che poco fa hai detto 9, hai detto. Vedi a vedere cos'è adesso. Oh, scusa, cos'è adesso, Natali? Natali è caduto dalla sedia. Sì, Natalino è più in basso di me, però sicuramente c'ha più spiraglio verso di te. Io sono completamente occluso qua. Pur per la zona tua non ne parliamo. Anche Polo Torres, però zona tua proprio off limit. Marco, traffico su. Sì, più coperto da parte mia. Sei molto più coperto di Natalino. Natalino nella zona che è più aperto. Ehi. Sì, Natale, hai sentito qualcosa, però o ascolto lì o ascolto qua. Ma voglio anche parlare, dai, prendi voi. Va bene, Maria. Ah, Natale, guarda che poco fa mi hai detto che arrivavo a 9, quando ti arrivo adesso? 9:05. 9:10, fra. Va bene lo stesso, mi sta dando 80-90 modulati. Che cavolo, e io sono con 10 watt. Ehi capo, aspetta allora, Ma 10 watt saranno importanti a multa, ai modulati quanti so? Che cazzo. Se la ride. Quello non lo considera Natalino. Io, anche io sono portante ultra a 10 watt adesso, e modulati sono 15, 16. Ma questo c'ha i picchi allucinanti, quasi 100. È allucinante questo. Caraleggio. Ma l'altro non lo usi mai, Natale? Sì, l'ho usato l'altro giorno. Quando c'eri tu mi hai, se lo uso. Aspetta che prendo il microfono, se no non funziona, perché questo non lo posso attaccare, perché il cavo non ce l'ho di questo, ma adesso attacco l'altro, così lo faccio girare un po', e funziona bene anche l'altro, non è che... Adesso lo mettiamo, ecco qua. Allora, però è in 80 metri. Qual è più difficile da usare, quello o l'altro, o quello che stai usando adesso? Tommy, va a capire, è più facile da trattare e va bene così. Sono tutti facili, non c'è problema. L'altro giorno è difficile, non è così facile, no? Gianni? Eia. Questo è l'altro. Questa è una modulazione chiara, ma è più da salotto, diciamo. Una modulazione chiara, ma non è amplificata. Perché non lo voglio usare io amplificato. Se giro il macchinino, cazzo, curuchito è scandaloso. Io lo voglio usare perché questo è per le bande alte, per le bande basse, voglio dire, là. Non lo voglio usare, quello è un giocattolo, quello grande. Lo uso come giocattolo, quello grande. Ma quello è quello che devi dare a me. Quello è bello. Questo qui è bello. Mi piace più dell'altro, se sto dicendo dell'altro, me lo uso come giocattolo. Capito? Questo qui è più serio, dai. È più serioso. Adesso ti faccio vedere che aumento la modulazione. Guarda, più amplificato è. A voi. Però non mi biasi, questo qui va meglio, per salotto va meglio questo. Vabbè, il Kenwood non ce n'è, come il Kenwood è... Ha ragione Claudio, che forse è uno dei pochi che sono quei pochi che riescono bene. Quegli altri sì, si adattano, ma di meno del Kenwood. E ci sono Kenwood che sono digitali addirittura e non vanno come questo, come quello lì. Questo qui per esempio va anche in AM, ma ci sono certi di questo qui che non ci vanno per niente. Te lo ricordi Vittorio come usciva? Aveva uno di questi ma non riusciva a farlo andare in AM, c'è tutto quanto cusciminato di radio, te lo ricordi? Cava. Però poi li senti in banda laterale, in FM, che sono bestiali, capito cos'è il discorso? Eppure devo riuscire a farmi il cavetto per l'altro, perché questo c'ha due uscite, posso attaccare due apparecchi, solo che mi hanno sbagliato il cavo, invece di darmelo quello fine, mi hanno dato quello grosso con gli stessi fili, solo che... Che cavetto, Natali? Hai mancato di botto? Sì, anche io non lo sento più. A chi? Natali. A me. Ehi, ti ho chiesto il cavetto, che cavetto devi fare? No, siccome questo è tipo l'Adonis, no? Millo, di nuovo, Natali, occhio allo spezzone, semicoppio, occhio allo spezzone. Guarda che bruci tutto. Ti trovi il barello dell'apparecchio senza antenna e spacchi tutto all'istante. No, mi si è mollata la portante perché non ho usato il lock ed è duro da usare. Questo è il microfono, Sicuro? Vabbè, basta che sia sicuro tu. Me? Questo è quello, il lock. Lo uso con lock così non mi si sgancia la portante. Mi si è sganciata la portante poco fa. Questo è l'IM5000, praticamente. C'ha due uscite. Però il cavo che ho messo nell'MC60 non entrava, perché questo cavo è più fino, non entrava nel cavo di rete, nell'RJ45. E allora ho fatto lo spezzone per l'MC60, uguale a questo spezzone qua. Però mi devo fare uno spezzone, tanto l'RJ45 ce l'ho. Uno spezzone per questo microfono che vada al K, capito? In modo che non devo stare a usare 30 microfoni. Sì, sì. Ce l'hai lo spinotto? Quant'è? 8 poli il K? È lo spinotto che sto aspettando perché Fusaro se li ha venduti, capito? E non ne ha altri. Mi manca lo spinotto, il pezzo del capo con l'RG 45 ce l'ho per questo. E ha 8 poli lo spinotto, quello del capo. E 8 poli anche quello dell'ICOM. Vedi Natali, se io non fossi così mandrone, io l'altro giorno quando ho ordinato quel Mike, quello spinotto, quello spezzone, ho ordinato due spinotti, uno a 6 poli e uno sbagliando l'ho chiesto a 8 poli e ne ho uno a 8 poli che non uso. Se non fossi stato mandrone avrei pigliato la moto in fretta, sarei scelto e l'avrei portato. E quando puoi me lo porti, dai, non ti succede portarmela adesso. Così mi faccio le connessioni e me lo metto qua, in modo che ce li ho tutti e due operativi subito. Questo ne ho dovuto accendere il microfono per poter usare questo, capito? Perché c'ho anche l'MBT4 sul tavolo, sono tre. Ehi, li ho tolti ieri dalla busta. Ha detto, è questo quanti poli c'ha? Credo, non ho sbagliato io proprio, distratto, ne ho messo prima uno nel carrello, poi ho fatto un giro, poi sono riandato, ne ho inserito un altro da 8 poli, fanculo a me. Ehi, vabbè, io quello di Gianni gliel'ho ordinato già con gli attacchi per il Superstar, quindi gli è arrivato già pronto a Gianni. Sì, meno rotture di scatole. Tanto guarda, il più usato, guarda, ce lo usa il Superstar, il Cobra, il Galaxy, quali altro? Per esempio anche quel Cobra 29 LX EU aveva lo stesso attacco microfonico. Molti lo usano, molti apparecchi americani lo usano con la piedinatura lì a 4 poli. Questo è il PTT normale. Come? Stai sparendo Natali, il PTT non sta andando però, No, perché lo sto facendo io, come mollo? Sì, però sembra quasi che sia a filo, proprio a filo di portante. Perché c'ha questi tacci strani, adesso sono con lock, sono senza mani, lo sto usando, e conviene usare il lock, perché molte volte ti scappa, come molli poco poco, tic, sgancia la portante. L'MB più 5 è forse più generoso, no? Come premi, cioè c'è una corsa maggiore, devi mollare molto credo per staccare. Infatti io ho l'MB più 4, qua è uguale all'MB più 5. Adesso mi uso il super tanto. Adesso voglio usare il super, così lo accendo un po'. Cazzo, gli ho messo la luce a LED nel super sun, uno spettacolo. È bella bianca, non è una lucina da morto, no, bella bianca. Io vado in bagno, riprendete. Cappa, avanti già. Gianni? Attenzione, Natalino, ci ascolti qua, cambio. Eia che ti ascolto, avanti. Ebbene, Natalì, ciao, buonasera. Buonasera anche a lei. Si presenti, non ti ho riconosciuto. Sempre Gianfranco la scimmia. Sempre Gianfranco la scimmia. Alias, vai, tiro, sono in barra mobile. Dai, vola tu, dai, sta scimmia. Buonasera. Ciao, Tino. Ciao Tino, buonasera da questa parte. Ciao a tutti, dai, camminamento, quindi rimango con Rix. Ciao Tino, non ti avevo riconosciuto perché questo è un altro apparecchio, capito? E c'è la ricezione un po' diversa. E non fa niente, dai, ciao a tutti. Ciao. Ma, blackout generale? Tutti scappati se ne sono. Io stavo cambiando apparecchio. Ho rilanciato a Gianni e Gianni non mangia. Non c'è da mangia. Magari ce l'ha al telefono. Bau bau micio micio. A firmi, bau bau micio micio. Oh signor. Adesso ce l'ho messo torna sopra quel microfono. Perché praticamente stavo usando l'altro per farlo scaldare un po', è sempre chiudato che... Milovina Gianni, Milovina! Rieccomi in posizione, ero al telefono, dai, scusate se non ho potuto avvisare, è il telefono di casa, quindi sono dovuto andare in sala a rispondere. Ciao Gianni, ciao, se mi ascolti. Ciao Tino, ben sentito, dai. Dove sei ti? Vicino a Platamona, dai. Pochi chilometri da Platamona. Se ti ascolto, però... Cosa già? Sei Santiago Nove qua. Vabbè, dai, aiutato, eh. Vabbè, dai. Comunque è già fare solo bene. Tino, a me mi senti col Superstar? Sì, Natalì, già ti ascolto, un po' più basso di Gianni, però ti ascolto. Ehi, capa, questo è il Superstar che ho omologato, questo c'ha 4 watt. L'antenna mi ho piazzato, per quello ti sento bene. Meno male, sono contento. Sotto casa mia. Già. Anche io sono col Superstar come quello di Natalino, dalla fabbrica, là. Cioè nuovo. Però lo sto provando con un microfono amplificato, ma la radio bene si sente in lontananza. Lontananza, dai, già segnale non te la do perché diciamo che non segna bene questo, però la radio già va bene. L'interessante è quello che mi senta bene, dai. Come lì a Platamona, gente a cenè. Non sono ancora arrivato, guarda, mancano un paio di chilometri, sono in strada. Va bene, dai. Prosegui, dai, rilanciamo tutto a Gianni, avanti Gianni. Eia. Fin qui tutto bene, sì. Tutti fortissimi. Il più piccolo sono io. Ti preannuncio che non entro nei pitini, quindi non lo so se c'è gente o meno. Comunque dalle macchine che ci sono credo di sì. Secondo me stai passando sotto casa. Ciao Franco, insomma. Cappa, ciao Tiro. Vabbè, dai, vi saluto, ciao. Rimane quel Rix che mi fate compagnia. Cara. Franco! Chi è? Natalino sono. Cappa. Ogni tanto mi fai un segnale diverso. E questo è il Superstar, l'omologato, capito? Questo è il 3009. Esce bene anche quello. attaccata, adesso sento tutti bene, era proprio l'antenna che era tutta messa male. E il cavo anche. Beh, Natali, se non era a posto è ovvio che lo sentivi bene. Marcello, infatti sono curioso di sentire Eugenio a vedere come lo sento quando entra, perché lo sentivo sempre basso, basso, basso, basso. E adesso lo dovresti sentire più alto, perché sei più, l'antenna ce l'hai anche più alta. Infatti, sono curioso di sentire a lui, perché lui è lontano, almeno mi rendo conto. Anche a te ti sento bene, e tu sei lontano, non sei vicino come loro, ma quelli lontani li sentivo tutti più bassi. Sì. Avanti Gianni. Ma non risponde Gianni, Lubrofe. Tanto Gianni doppio rum, chissà cosa sta facendo, è al telefono. È probabile. Allora, non sto controllando una cosa. Tutto bene, dai. I picchi positivi ci sono, dai. Sono contenta. E se non sei contenta, ti accontentiamo. Visto là che riesco a parlare anche col 3009. Allora, Gianni, non puoi parlare alla radio se ce l'hai positivi. Non ti ho capito, Fra. Ho detto che se ce l'hai positivi non puoi parlare alla radio. Ah, così è. Non conoscevo questa norma, dai. Quando c'è il coronavirus, cazzo, c'è positivo, no? No, qua stavo guardando lo strumentino qua, che c'è il laghetto bello allegro che si muove, dai. Stavo controllando la modulazione. Ho capito. E vabbè, là. No, io sto usando un'altra radio, piccolina, per farla girare, l'Uranus, Luia, un fatto e mezzo, dai. Ogni tanto bisogna farne girare una. Purtroppo, io ho una al giorno, o ogni due giorni, poi se si fa sarebbe giù parelli. No, questa già funziona bene, era di Eugenio questa. Abbiamo fatto uno scambio e gli ho dato un portatile, un vecchio Alan 38, quello con l'antenna in gomma, della CTE. Sempre della 27. Un baracchino, un portatile, un vecchio Alan 38. Abbiamo fatto cambio, a lui gli serviva un portatile da usare in vacanza durante gli spostamenti o per collegamenti tra camper a camper, e di questo non si rimaneva più nulla, allora abbiamo fatto cambio, dai. Un bello scambio. Sì, più o meno, dai. Più o meno è stato uno scambio equo. Ci abbiamo guadagnato tutti e due. Tutto da vedere. A lui serviva un portatile. A lui gli andava bene quello, completamente funzionante, perfetto. E che cazzo, che si succhia, si mangia le batterie, in pochissimo tempo. Secondo me il tipo di portatile è, certo. No, io ho il Midland, ti dico che c'ha 6 batterie, ma le batterie durano, il pacco batterie dura un'infinità. E ce l'ho da parecchio adesso, ce l'ho. Però è un modello nuovo, Questa Franco era portatile grande nero col display 40 canali solo AM, poi aveva la potenza regolabile, minima massima, e montava 10 stilo se non sbaglio, o 10 o 12, buono meno a metro. A livello di consumo di batterie era spropositato. Vabbè, intanto lui lo usa con l'attacco a CD sigari quando capita, oppure si mette le ricaricabili. Capo, io fatti così ce n'ho due, c'ho il coso, Edicom 50S, ciò. Ne ho due di quelle. Io ho l'Inte. L'Inte che c'hai? Ehi, quello Inte che è pompa forte. Sono arrivato da... portando il cane vicino a casa, sono arrivato vicino a Porto Torres. Capo, buono, buono. Sono tutte funzionanti, ce li ho. Questi Redicom 50S sono vecchi, sono molto vecchi di età, non vecchi di struttura, sono pure di struttura. E funzionano.